2024 2024 di Enrico Pagliarini. E questa è la nuova puntata di 2024, la puntata del 15 settembre 2012. Benvenuti o bentornati, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. In regia oggi c'è Paolo Corleoni, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800 24 0024. Detto in altro modo, 800 24 0024. Potete contattarci tramite questo metodo tradizionale, tramite gli SMS oppure anche via Facebook, via email, via Twitter. Poi vi daremo qualche dettaglio in più. Iniziamo con una bella notizia, una decisione di un giudice di pace di Trieste che ha stabilito che chi ha un abbonamento ad internet ha diritto ad averlo con continuità, come succede per l'acqua corrente, per l'energia elettrica, il gas. Allora, al giudice si era rivolta una signora che ha 3 figli che studiano ed erano rimasti per circa 5 mesi senza internet. Loro avevano fatto un abbonamento ad internet, ma per 5 mesi, per vari problemi del gestore di telefonia, non erano riusciti ad averlo e sono stati anche 2 mesi senza telefoni. Infatti si riferiscono al 2009, quindi ci sono voluti 3 anni per avere ragione. Allora il giudice dice che la signora ha subito un'apprensione angosciosa prodotta dalla situazione, un turbamento che ha inciso direttamente sulla sua sfera emotiva e relazionale, danno considerato particolarmente grave in un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale per ogni aspetto della vita. Molto chiaro, mi sembra. Il giudice ha stabilito un risarcimento per danno patrimoniale, 1600 euro, ma anche per danno esistenziale, 800 euro, riconoscendo lo stress causato dall'impossibilità di connettersi. Allora, naturalmente questa decisione apre 1000 dibattiti, non ultimo quello sul danno esistenziale. Questi li lasciamo ai giuristi. La cosa interessante è che per la prima volta, a noi risulta essere una delle prime volte, che un giudice, seppur un giudice di pace, dice che non è possibile rimanere 5 mesi senza internet dopo aver fatto un abbonamento e quindi il servizio deve essere garantito regolarmente. Prima di iniziare con i nostri approfondimenti, vi ricordo che è tornato il mitico premio WWW del Sole 24 Ore, che premia la creatività digitale italiana. Allora, per iscrivere il vostro sito internet, controllate tutte le regole. Se ritenete di avere delle chance per vincere il prestigioso premio WWW, poi non ce n'è solo uno, ce ne sono tanti per tante categorie. Comunque, per iscrivere il vostro sito internet, scrivete, digitate, andate su questo sito internet, è molto facile, premio www.ilsole24ore.com. Cristoforo Morandini è responsabile dell'osservatorio Banda Larga di Between. Morandini, bentornato a 2024, buongiorno. Buongiorno a tutti. Noi oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione, perché riprendiamo con la nostra prima puntata la nuova versione stagionale di 2024, ma anche perché ci sono alcune notizie che riguardano la diffusione della banda larga o ultra larga, poi dipende sempre dai punti di vista quanto ultra e quanto larga è questa banda. Allora, noi abbiamo parlato più volte lo scorso anno di un progetto nazionale per costruire il famoso, ma ormai ne parliamo da tantissimi anni, il famoso Next Generation Network, il network in fibra ottica di nuova generazione, e si sta discutendo a livello nazionale, una discussione molto complessa, di un accordo tra MetroWeb, e dietro a MetroWeb ci sono capitali di vari fondi, ma sostanzialmente di Cassa Depositi e Prestiti, e Telecom Italia, che oggi ha la rete di accesso primaria. Da questo punto di vista ci sono delle novità? Poche, mi sembra. Sì, se vuoi, in sintesi, nulla cambia e tutto si trasforma. Cioè, quindi il grande progetto nazionale in questo momento viene messo un po' in secondo piano, anche se, come accennavi tu, banche d'affari e i diversi attori continuano a discutere. In realtà, per agire veramente, qualcuno deve mettere sul tavolo 4 o 5 miliardi e in questo momento è difficile. Del resto, se ci pensiamo, c'è l'unico caso al mondo dove effettivamente un progetto di questo tipo è stato concretizzato, l'Australia, dove c'erano le 3 condizioni che abbiamo già accennato una volta, e sono che c'è un governo che ha costruito il suo successo elettorale su questo tema, una trattativa che è durata anni e un investimento pubblico dell'ordine di alcuni miliardi per comprare la rete che era dell'operatore storico, quindi un caso abbastanza unico. Sì, da questo punto di vista possiamo dire che l'Italia non è in ritardo rispetto ad altri paesi, almeno in altri paesi, quelli vicini a cui giustamente ci dobbiamo confrontare, Francia, Germania, Gran Bretagna, eccetera. Sì, diciamo che loro sono comunque un po' avanti rispetto a noi. Le notizie di questi giorni sono comunque importanti, perché effettivamente anche da Twitter ci chiedevano se ci sono buone notizie, e buone notizie ci sono, sembra incredibile, ma qualcosa si muove. Esatto, a proposito delle cose che si muovono e a proposito di quello che tu dicevi poco fa, cioè che questo progetto al momento non è accantonato, comunque è in stand-by, si sta continuando a discutere, però ci sono alcuni soggetti importanti e citiamo in primis Fastweb e Telecom Italia che hanno raggiunto un accordo per fare che cosa? Sì, allora in realtà l'accordo è un complemento rispetto a progetti che stanno comunque sviluppando autonomamente, cioè tu a Milano e io a Roma, ma sta accadendo anche in altre grandi città, abbiamo effettivamente sotto gli occhi dei cantieri in movimento, anche se per il vero abbastanza discreti. Si lavora a Milano, si lavora a Roma, si comincia a lavorare in altre città per portare a Milano la fibra dentro le case di tutti i milanesi. Cioè dove ancora non è arrivata? Sì, ma soprattutto sì, per completare il progetto di copertura integrale dei 40.000 edifici di Milano, mentre, ed è questa la notizia diciamo più rilevante, Telecom Italia sta lavorando, Fastweb ha annunciato che inizia a lavorare in altre città però con un'architettura diversa, quindi se uscite di casa a Milano, più che altro a Roma e in altre città, troverete armeggiare attorno agli armadi grigi che stanno per strada, ecco lì viene portata la fibra e da lì viene riutilizzato il doppino che entra dentro gli edifici. È una soluzione meno performante rispetto a quella di Milano, ma che consente di ottenere a dei costi relativamente contenuti servizi ad elevata velocità che fanno già parte dei servizi di nuova generazione. Sì, è interessante questo aspetto, che sembra un aspetto tecnico, poi in definitiva riguarda noi e la nostra esperienza d'uso, perché come tu ricordavi questa soluzione tecnica è meno performante e tra l'altro io ricordo che proprio dai nostri microfoni questa soluzione è stata criticata dall'amministratore delegato di Metroweb, che fornisce servizi di accesso primario diciamo agli operatori, perché giustamente Metroweb crede, ma io stesso credo, direi molti esperti credono che sia più giusto anche per guardare al futuro andare direttamente nelle case di tutti gli italiani con la fibra ottica, il famoso fiber to the home. Perché si fa questa soluzione, si adotta questa soluzione che è un po' di compromesso, cioè io porto la fibra agli armadi e poi da lì dagli armadi ci sono già i doppini telefonici che mi coprono l'ultimo miglio, soprattutto per risparmiare, o ci sono degli altri motivi? Il principale motivo è fondamentalmente questo, cioè oggettivamente la soluzione tecnologica più efficiente dal punto di vista prestazionale è oggi e rimarrà in futuro quella di portare la fibra dentro le case. Con questa soluzione puoi garantire centinaia e oltre megabit al secondo di download e delle performance simmetriche, però le risorse per fare tutto questo non ci sono e probabilmente non ci saranno nel breve e nel medio periodo. Ti ricordo che per cablare tutta l'Italia in fibra ottica servono 15-20 miliardi che oggi non ci sono. Se quindi vogliamo dare qualcosa nei prossimi 3 anni ad una quota ragionevole di cittadini e imprese, non ci sono molte altre vie e questa soluzione che tu hai detto di compromesso in realtà la stanno sviluppando nei maggiori paesi europei. E questa soluzione attualmente viene adottata solo sulla base di questo accordo da Fastweb e Telecom Italia, cioè verrà adottata, perché stiamo parlando del futuro, poi parliamo anche di quale futuro, qual è la misura di questo futuro, o ci sono anche degli altri player in campo? E aggiungo un'altra domanda. Per fare una cosa del genere necessariamente bisogna passare e mettersi d'accordo con Telecom Italia, che ha i doppini di rame e ha i famosi armadi stradali. Sì, allora quest'ultimo aspetto è relativamente semplice, anche se tecnicamente complesso, perché è un problema che è sottoposto a vincoli regolamentari, quindi ci sono delle regole del gioco che spiegano come si può fare, a quali condizioni. Per quanto riguarda le scelte tecnologiche, Fastweb e Telecom Italia hanno deciso di seguire questa strada che è più economica, ma consente di ottenere delle buone prestazioni e portarle in modo relativamente capillare subito. Wind e Vodafone hanno invece siglato un accordo con Metroweb per Milano e si tratta adesso di capire cosa intendono fare nelle altre città. L'accordo di Metro con Wind e Vodafone a Milano in prima approssimazione si applica anche alle altre città dove il fondo F2I e Metroweb sono intenzionate a realizzare delle infrastrutture. Quindi vedremo nei prossimi mesi all'opera questi due schieramenti e sarà una partita molto interessante. Sì. Allora, a questo punto, o meglio, fra un paio di 2-3 minuti ti faccio l'ultima domanda che riguarda i luoghi dove questi progetti potranno vedersi. Tu hai citato Roma e Milano, in effetti a testimonianza di ciò tu durante l'estate ogni tanto metti su Twitter una fotografia di scavi che si stanno facendo a Roma. Io, se questa mattina avessi fatto una fotografia nel centro di Milano, sono passato in una via che era stata bloccata per lavori relativi alla rete di telecomunicazione. Allora, vorrei capire tra poco quando arriveranno questi primi servizi con reti a addirittura 50-100 megabit e soprattutto dove, perché il dove è piuttosto importante. Allora, un nostro ascoltatore, e qui tutte le volte che si parla di rete fisica, di rete terrestre, salta fuori uno che dice acceleriamo sulle reti wireless, acceleriamo, dice un nostro ascoltatore, sull'LTE. Peccato che per portare capacità alle antenne che poi sparano il segnale della telefonia mobile in giro per le città, in giro per la campagna, ci vuole grande capacità e quindi ci vuole la fibra ottica che porti all'antenna la capacità, perché poi l'LTE senza un buon collegamento ad internet non serve a nulla. Quindi le due cose stanno assieme e comunque, se guardiamo al futuro, la capacità della fibra ottica è n volte maggiore, più stabile rispetto al wireless, ma di questo abbiamo parlato più volte, abbiamo spiegato, magari rispiegheremo verso la fine dell'anno quando comincerà ad arrivare anche LTE in Italia, perché è sempre da preferire la linea fissa, il cavo, rispetto al wireless. Ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da Strade e Autostrade. Vi ricordo che potete chiamarci, oltre che mandare sms al 349-238-6666, potete anche chiamarci al nostro numero verde 800-24-0024. A tra poco. 2024. Vi ricordo che nel corso della nostra puntata per il primo mese di 2024, di questa nuova versione, vi regaleremo un software. Questa settimana un software di riconoscimento vocale molto interessante. Questo nel corso della nostra puntata. Stiamo parlando della diffusione della banda larga in Italia, un tema molto importante, direi forse il principale tema per cercare una via per il nostro sviluppo. Non solo per le nuove aziende che si occupano di cose digitali, ma anche per le aziende tradizionali che necessariamente devono collegarsi alla rete internet per tante cose e lo dovranno fare sempre di più. Quindi questo è sicuramente una strada per lo sviluppo. E quando diciamo che per costruire una rete di nuova generazione in Italia servono dai 15 ai 20 miliardi di euro, come ci ricordava Morandini, vanno considerate due cose: che intanto stiamo parlando di una cifra sostanzialmente molto bassa, perché se facciamo delle strade, facciamo ben poche strade, ben pochi ponti con 15-20 miliardi, quindi se si facessero un po' meno strade, che sono pressoché inutili oramai per lo sviluppo di un paese, e puntassimo sulla fibra, sicuramente ne beneficerebbe tutto il sistema competitivo del nostro bel paese. E poi c'è da dire un'altra cosa, che prima o poi andrà fatta una bella mappa di quello che c'è già, e si scopre che di fibra ce n'è già poco utilizzata, soprattutto delle ex municipalizzate, che faticano, è un complimento, ad essere competitive in questo settore. Proprio, diciamo che molto spesso non ci capiscono proprio nulla. Cristoforo Morandini è con noi, è responsabile dell'osservatorio Banda Larga di Between, sicuramente uno dei migliori interlocutori per parlare dello sviluppo della rete internet in Italia. Allora, Morandini, detto di questi progetti che soprattutto Telecom Italia e Fastweb hanno annunciato per portare nelle città, e qua vorrei capire dove poi, fibra fino agli armadi e poi comunque internet nelle case a 50-100 megabit, siamo su quest'ordine? Sì, quindi prima tu chiedevi di capire un po' meglio, no? Tempi e cosa ci porteranno. Esatto, stiamo parlando dei prossimi mesi, prossime settimane, o ci vogliono anni? Ma io ti propongo di concentrarci sui 36 mesi, perché più in là chissà cosa succede. Quindi i primi servizi a banda ultra larga li vedremo sicuramente sotto l'albero di Natale o al più tardi all'inizio del 2013. Prima buona notizia. A Milano la trasformazione della rete attuale in una rete in fibra sostanzialmente dappertutto, quindi una sorta di switch off, è prevista entro il 2015 ed è possibile. Replicare il modello di Milano è sicuramente invece molto più complicato. Il fondo F2I parlava di una trentina di città, ma alla luce dell'accordo che tu hai citato prima, adesso bisogna capire se effettivamente il programma continua. Invece nel frattempo, quello che darei sostanzialmente per sicuro, entro il 2015 le prime 100 città italiane avranno dei servizi a banda ultralarga con la soluzione più economica che abbiamo descritto prima. Prime 100 città significa un terzo dell'Italia, se vuoi. Sì, e a questo punto parliamo di città grandi o piccole quanto? Ma tipicamente sono città che hanno più di 60-70 mila abitanti, per darti un'idea. Adesso leggo una lista, così alcuni ascoltatori diranno «oh, finalmente», e altri diranno «purtroppo io non ci sono compreso». Vabbè, Milano-Roma l'abbiamo dette, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Palermo, Trieste, Bari, Bologna, Verona, Ancona, Brescia, Monza, Livorno, Reggio Emilia, Padova, Como, Bergamo e Pisa. Probabilmente poi questo elenco potrà essere rivisto e verrà sicuramente rivisto. Qua stiamo parlando dei piani di Fastweb. Le città di Telecom Italia, se non sbaglio, sono molte di più, giusto? Sono un centinaio, sì, in questa prima fase, ma comunque incidono anche su queste città. Quindi nelle città che tu hai detto vedremo comunque due soggetti all'opera, almeno due soggetti all'opera. Ultimissima domanda, a tuo parere, per avere questi megabit in più, poi un giorno in una delle prossime puntate faremo una bella chiacchierata anche per capire che cosa, a cosa ci servono, e ci servono sicuramente soprattutto per le imprese questi megabit in più, dovremo pagare di più o potremo vedere delle offerte a prezzi analoghi a quelli di oggi? E questa è quasi una provocazione, nel senso che siccome dobbiamo fare un nuovo investimento, dobbiamo ripagarcelo in qualche modo. Ripagare un investimento di questo tipo richiede implicitamente o di risparmiare da qualche altra parte, ma non è facile, oppure di chiedere un premium price per ottenere un servizio che ha delle prestazioni, all'inizio vedremo delle prestazioni che sono 5 volte fino a 10 volte superiori a quelle che vedevamo ieri. Quindi questo per 5, per 10, quanto vale secondo i nostri ascoltatori? Io personalmente sarei disposto a mettere un gettone interessante per ottenere un servizio a prestazioni garantite. Sì. Senza il premium price gli investimenti rischiano di non andare molto lontani. Grazie a Cristoforo Morandini per essere stato con noi, sicuramente ti coinvolgeremo presto, sperando che ci siano novità da commentare. Buon lavoro, a presto. Buon lavoro a voi e a presto, arrivederci. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate anche su Twitter, potete trovarmi chiocciolina @Pagliarini, oppure scrivere chiocciolina 2024 _R24, quindi possiamo seguirci a vicenda anche su Twitter. Ricordate la famosa ADOPI, l'autorità per la protezione del diritto d'autore su internet in Francia? Dopo 2 anni di attività, per la prima volta, un uomo di 39 anni è stato condannato per avere scaricato illegalmente 2 canzoni di Rihanna, ma diciamo che queste sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Dovrà pagare una multa di 150 euro. Non era la prima volta, naturalmente, che questo signore, poi non lui direttamente, comunque questo fatto accadeva, perché prima di finire davanti al giudice la legge prevede che si venga avvisati 2 volte, ma l'uomo non ne sapeva nulla perché era la moglie a scaricare musica. Allora, questo caso è uno dei 14, solo 14, trasmessi dalla ADOP alla giustizia francese ed è il primo a chiudersi con una condanna. In 2 anni l'autorità francese ha inviato più di 1 milione di email di avvertimento della serie: oh, abbiamo visto che scarichi cose che probabilmente sono illegali, datti una calmata. Allora, solo 100.000 utenti hanno ricevuto un secondo avviso e 340 hanno continuato a infrangere la legge. Il governo però si sta chiedendo se il gioco vale la candela, visto che l'autorità costa 12 milioni di euro e 60 funzionari. Digital News. Abbiamo altre notizie della settimana. Compie oggi 9 anni The Pirate Bay, a proposito di cose illegali, sito che è il centro mondiale del download illegale, ma anche di file che vengono scambiati legalmente, soprattutto attraverso il protocollo peer-to-peer BitTorrent, i famosi torrent. Nonostante i processi e i tentativi di fermare la baia dei pirati, The Pirate Bay rimane online e indicizzato sui motori di ricerca. Questa mattina mi sono collegato con The Pirate Bay, quindi tutto funzionava per bene. Allora, notizia di ieri: venerdì 14 è stato assegnato l'ultimo blocco disponibile in Europa di indirizzi IPv4. Chi vuole collegare nuove macchine, nuovi server ad internet dovrà adottare il nuovo tipo di indirizzo IPv6. È un po' come quando finirono le combinazioni dei numeri di telefono a 6 cifre e nelle grandi città si passò ai numeri a 8 cifre. Digital News. L'autorità garante per la concorrenza e nel mercato, detta anche antitrust italiano, ha avviato un'istruttoria per verificare se Telecom Italia, Vodafone e Wind si siano messe d'accordo per escludere dal mercato un nuovo operatore mobile virtuale che si chiama Bip Mobile. L'offerta di Bip Mobile verrà presentata il 20 settembre, mentre l'istruttoria dovrà concludersi, speriamo però prima, entro il 30 settembre 2013. Digital News. Un'ultima notizia: ci sono date di arrivo e prezzi della nuova console Nintendo Wii U. Dal 18 novembre sarà in vendita negli Stati Uniti, dal 30 novembre in Europa, 260 euro nella versione base, 315 nella versione premium. Bene, chiudiamo questa prima parte di 2024. Tra poco 2 ospiti nel nostro studio, uno registrato, per parlare di iPhone 5. Chiamateci, il nostro numero verde 800 24 00 24. 2024. Seconda parte di 2024, le 16:06. Io sono Enrico Paglierini. In questa seconda parte parleremo di iPhone 5, ma non solo di iPhone 5, anche delle ultime novità che sono arrivate sul mercato, a partire da quelle presentate da Nokia, anche quelle che ha presentato Amazon. Beh, io ho detto novità che sono arrivate sul mercato, in realtà nulla è ancora arrivato sul mercato, ma lo sarà a breve. In regia oggi c'è Paolo Corleoni. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre considerazioni, per le vostre domande: 800 24 00 24. Ringrazio Nadia Zammitti che ci aiuta in regia e anche Rosa che si occupa del centralino, quindi risponderà lei alle vostre telefonate. Potete anche inviarci un sms al 349 238 6666, scrivere su Facebook, adesso scrivo qualche cosa io, così potete rispondere, fare i vostri commenti, oppure anche usare Twitter. Alcuni ascoltatori lo hanno già fatto, potete seguire direttamente il mio account, poi ricordiamo anche quello di Figini, di Morandi, e underscore Pagliarini, facilissimo. Massimo Morandi, bentornato, benvenuto, ciao, come va? Ciao, tutto bene, buongiorno a tutti. Massimo Morandi è il direttore di Cellular Magazine. Senti, una delle cose che alcuni hanno detto è che questa volta un po' Apple ci ha deluso, un po' sapevamo quasi tutto, quindi non hanno mantenuto il segreto. Addirittura ho letto qualcosa negli Stati Uniti, all'inizio della fine, alcuni commenti catastrofici. Ma sì, io non sarei mai così definitivo. Tu sei sempre molto diplomatico. No, al di là della diplomazia, è vero, si è dibattuto molto, forse è mancato quello che viene ormai chiamato l'effetto wow della presentazione. D'altronde, bisogna essere sinceri, Steve Jobs non c'è più e con lui non c'è più il suo carisma, ma Apple sa e sta già facendo, sta guardando avanti. Ci sono altri personaggi che interpretano le parti in modo diverso secondo la loro personalità. Detto questo, però è bene dire che è difficile comunque continuare a stupire in un mondo che si è molto avvicinato. Il salto è stato fatto qualche anno fa, iPhone ha stupito e come Apple ha saputo stupire. Oggi diciamo che si continua a progredire, il nuovo iPhone è sicuramente un'evoluzione del passato, non è una rivoluzione. E quindi con le evoluzioni è difficile stupire, con le rivoluzioni forse è un po' più facile. Luca Figini, benvenuto, bentornato. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Luca Figini lavora con Massimo Morandi, oltre che Cellulare Magazine voi avete una ricca serie di riviste, tra cui Smartphone Magazine, che si occupano di smartphone anche in questo caso. A proposito di iPhone 5, ecco a voi. Arriverà sul mercato il prossimo venerdì in un primo gruppo di paesi, compresi gli europei, Francia, Germania e Gran Bretagna. Mentre l'arrivo in Italia è programmato per il 28 settembre a prezzi che dovrebbero essere allineati con quelli attuali. Molte delle indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate e forse per la prima volta Apple non è riuscita né a mantenere il segreto sul nuovo prodotto né a sorprendere i consumatori. iPhone 5 ha un display più allungato fino a 4 pollici. Migliorano processore, autonomia della batteria e risoluzione del display Retina, ma il design rimane sostanzialmente invariato anche con l'uso della nuova scocca in alluminio. iPhone 5 pesa 112 grammi, il 20% in meno, ed è più sottile del 18%, 7,6 mm. Tra le novità, il nuovo connettore Lightning e l'utilizzo della nuova Nano SIM. A proposito del mancato effetto wow, ho fatto una lunga chiacchierata che magari vi riproporrò in podcast, però ho selezionato le cose più interessanti con Carolina Milanesi, che si trova da qualche mese, si è proprio trasferita in California perché, ahimè, l'Europa non è più il centro del mondo della telefonia mobile, lo sono gli Stati Uniti. Carolina Milanesi è vicepresidente di Gartner. Sì, senz'altro dal punto di vista, diciamo, delle specifiche del prodotto c'è stata meno sorpresa. Secondo me la sorpresa, se vuoi, più dell'evento è stato l'iPod, è stato il revamp della linea iPod che non l'iPhone, quindi diciamo che Apple ha tenuto comunque una sorpresa, non era la sorpresa legata al prodotto, diciamo che era il prodotto principale dell'evento, che era l'iPhone 5. Assieme all'iPhone 5 arriva sul mercato, naturalmente non solo per questo prodotto ma anche per altri prodotti, il nuovo sistema operativo. Ritenete che sia più interessante questo nuovo prodotto iPhone 5 o in generale la nuova esperienza, i nuovi servizi che arrivano con iOS 6, quindi il nuovo sistema operativo? Non puoi, a dire la verità, scindere i due, no? Il successo di Apple viene appunto da questo, viene dall'unione del software e dell'hardware, quindi tu hai un hardware che viene ridisegnata con l'iPhone 5 e avendo toccato il prodotto con mano, la cosa che io ho trovato più sorprendente è la leggerezza del prodotto rispetto al 4S e al 4 e come ritiene la qualità, cioè il prodotto leggerissimo che però non ti dà quella sensazione di prodotto a basso costo come altri prodotti che ci sono sul mercato adesso, ma ritiene quell'eleganza e quel tocco di qualità che è sintomatico di Apple. E poi hai, oltre a questo, hai l'iOS 6 e quello che iOS 6 porta sul prodotto, che è usabilità, che sono le mappe, che sono un'esperienza ricca che ti dà quell'offerta, diciamo, fine a fine, end to end, no? come dicono qua, che lega poi il consumatore non solo all'Apple come nome, ma all'ecosistema e permette ad Apple di rimanere il venditore che oggi ha ancora i margini più grandi di tutta l'industria. E questo è un dato importante, perché i margini in questa industria, in generale nell'elettronica di consumo, i margini sono sempre bassi, per non parlare di quella dei computer. Apple è l'industria che riesce a mantenere i margini più elevati, tant'è che la borsa ha premiato in questi giorni Apple anche dopo la notizia che sono bastate poche ore dall'apertura dei preordini di iPhone, che arriva appunto dalla prossima settimana negli Stati Uniti, tra due settimane in Europa. Tutto è andato esaurito e anche la borsa si è mossa di conseguenza. Luca Figini, allora poi parliamo anche, se siete d'accordo, ma poi sentiamo anche gli ascoltatori, se siete d'accordo che iPhone sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software fornisce ancora l'esperienza d'uso migliore, ma questo è un dibattito molto aperto. Però a proposito di novità che sono state presentate, quelle che tu, Luca, ritieni più interessanti? Ma io non ho ancora toccato con mano, sto aspettandolo. Vabbè, nessuno, a parte chi era là. Esatto. Però diciamo che le cose che più mi hanno entusiasmato, anche senza effetto wow, della conferenza, sono state innanzitutto la non importanza dell'hardware, nel senso che l'hardware è diventato tutto sommato transitorio per Apple, o meglio, l'iOS 6 diventa centrale nella proposizione di Apple, e tutto sommato l'hardware deve essere abbastanza appealing, quindi l'oggetto deve essere bello da poter permettere la penetrazione del sistema operativo e dei servizi. E qui arrivo sulla seconda grande novità che mi è piaciuta, che è iCloud. iCloud è stato espanso, è stato addirittura sublimato, perché adesso è accessibile anche da internet con iCloud.com, e da lì uno può accedere tutte le informazioni che di solito sono disponibili su iPod, iPhone e Mac, e quindi è slegato completamente da un dispositivo fisico il tuo dato. Puoi vedere da internet i contatti, le fotografie che hai scattato o le mail su iCloud. Altre cose che mi sono piaciute è sinceramente la forte attenzione per la qualità costruttiva. Riprendo un'analisi che hanno fatto in molti negli Stati Uniti, che in effetti Apple si sta sempre più posizionando come la Rolex degli smartphone, nel senso che la qualità che profonde nella scelta dei materiali, la cura nella costruzione, comunque lo rende diverso da tanti altri telefoni. Poi si può discutere se la combinazione con vetro e metallo sia meglio della plastica più leggera, eccetera, però in termini di qualità è notevolmente superiore. E l'ultima cosa che mi ha colpito, che mi piace, è la fotocamera. La fotocamera, nonostante sia rimasta 8 megapixel, è stata migliorata nella resa fotografica. Ci sono alcuni scatti di comparazione online, è stata migliorata nella gamma e nell'apertura. Questo vuol dire che sempre più, siccome la fotografia è una delle funzioni più utilizzate dagli utenti, sempre più Apple si va a sovrapporre, a sostituire la fotocamera. Questa è anche un'altra direzione interessante. Riprendiamo tra un minuto, adesso ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade. Vi ricordo che premieremo, ci sarà una domanda alla quale rispondere, ci sarà un premio. Vi ricordo anche il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Adesso solo per i nostri ascoltatori della versione podcast, quindi in esclusiva solo per chi downloada il file MP3 settimana dopo settimana attraverso il servizio podcast di Radio 24, la seconda parte, la versione integrale dell'intervista che abbiamo realizzato con Carolina Milanesi, che, come vi dicevo poco fa, è vicepresidente di Gartner, si occupa di elettronica di consumo e naturalmente nell'ambito dell'elettronica di consumo il mondo dei terminali mobili e degli smartphone in primis è tra i più importanti, se non il più importante. Allora abbiamo chiesto a Carolina Milanesi se Gartner, se il team che segue questi mercati, non si aspettava qualche cosa in più da Apple dalla presentazione di iPhone 5. No, diciamo che le cose, se vuoi, delle cose di cui tutti hanno speculato prima, c'era il famoso NFC, no? Near Field Communication, per poter fare pagamenti tramite il tuo telefonino. Questa è una cosa che non c'è stata. Ma alla fine il consumatore non credo che onestamente sarebbe importato. L'ecosistema intorno al pagamento tramite telefono è ancora molto debole. e i consumatori al giorno d'oggi hanno altri modi, la carta di credito un classico, per pagare senza dover avere proprio il telefono come unico mezzo. E quello che Apple ha dato fino adesso, che è tramite il loro nuovo modo di avere boarding pass per il l'aereo piuttosto che la carta d'imbarco, la carta, esatto, e via dicendo, è abbastanza per il consumatore, no? Per adesso. Poi vedremo magari tra un anno se l'ecosistema è più maturo, ma adesso come adesso non fa differenza. Altre cose dal punto di vista di aspettative, non credo che ce ne fossero un granché. Il miglioramento di Siri come sistema di voce, operare il telefono tramite la voce, non solo migliora a livello di intelligenza con quello che porta iOS 6 con i dati intorno ai film, i dati intorno allo sport, ma anche grazie a quello che hanno fatto sul telefono, dove cambiando il famoso connettore, che sembra che abbia fatto arrabbiare i consumatori, anche se in realtà non c'è poi questa grande distruzione del mercato degli accessori, no? Perché cambi il connettore, ma questo connettore più piccolo ha permesso ad Apple di avere più speaker sul telefono, quindi Siri mi capisce meglio nonostante il mio accento. Più microfoni, più microfoni. Speaker. Quindi ci sono delle scelte di hardware che insieme alle scelte di software danno un'esperienza maggiore. Secondo me, alla fine, nel momento in cui Apple continua a tenere il focus di migliorare l'esperienza per il consumatore, ritengono quella lealtà del consumatore alla brand, all'ecosistema, e questo è quello che secondo me manca ancora a competitori come Samsung, per esempio, dove hanno la brand, hanno dei buoni devices, ma non c'è ancora, secondo me, quella lealtà proprio dell'utente a quell'ecosistema che stanno cercando di crescere. Sì, anche perché utilizza un sistema operativo che non è del brand, quindi sicuramente già da questo punto di vista uno è meno fedele al telefono, perché forse lo è più al sistema operativo, quindi magari più facilmente scappa verso altri telefoni che hanno lo stesso sistema operativo che è Android. Dal tuo punto di vista, quindi, diciamo, te lo chiedo separatamente, ma dalle cose che ci hai detto già si capisce, tu ritieni ancora oggi che l'esperienza d'uso in generale di Apple sia ancora leader sul mercato? Ma aggiungo una seconda domanda: ritieni che però le distanze con gli altri si stiano assottigliando, soprattutto con dopo aver visto pochi giorni fa Windows Phone 8 che arriverà presto, anche se non sappiamo quando, questa è una critica che si fa a Nokia, comunque arriverà presto, entro la fine dell'anno, appunto sui nuovi Lumia di Nokia. Sì, allora ci sono due cose da sottolineare, secondo me. C'è il punto di vista dell'hardware, delle specifiche dell'hardware e del sistema operativo, che senz'altro la competizione ha fatto dei passi da giganti nell'ultimo anno, e sia soprattutto dal punto di vista di Windows Phone. Android è cresciuto in maniera fortissima sin dall'inizio. Adesso diciamo che l'aumento di ogni sistema operativo, l'improvement di ogni sistema operativo, forse sta scemando un pochino dal punto di vista di Android. Però c'è senz'altro un level field, no? Cioè senz'altro la competizione è più ravvicinata. Per i consumatori però che sono nella fascia alta del mercato e che apprezzano quello che lo smartphone, come diciamo un mini computer ormai, no? È diventato, riesce a darti, siamo a un punto veramente di cambiamento, dove come consumatore vuoi di più, non è soltanto l'hardware e come fai a navigare il telefonino, ma quello che poi quel telefonino lì ti dà. Quindi il telefono diventa una porta che ti permette di entrare nell'ecosistema, e questo diventa la battaglia di domani, no? E per questo che secondo me comunque l'Apple oggi è ancora all'avanguardia sotto questo punto di vista. E quindi la discussione diventa market share, magari no, non sono, anzi senza il magari, se guardiamo anche le nostre quote di mercato, non sono i leader nella parte dello smartphone, ma come valore del mercato, piuttosto che il volume del mercato, senz'altro sono ancora quelli da battere. E questo sarà il punto dove, se tu come azienda di telefonini, ma anche di computer, perché poi non sono mercati tutti isolati, no? Andando avanti, guardiamo Windows 8, che dove c'è Windows Phone, ma ci sono i tablet su Windows 8 e i PC. Questi sono è il mondo di domani, un mondo che diventa sempre più complesso e dove dal punto di vista del consumatore ti devi gestire più di un device, quindi il telefono, il tablet e il PC. C'è chi ha detto che molto ottimisticamente che iPhone 5 potrebbe valere addirittura un quarto di punto o mezzo punto percentuale sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Ci credete anche voi? Guarda, noi ci limitiamo a fare i forecast dei telefoni e dei PC, lascio ad altri questi numeri. Quello che secondo me vale la pena sottolineare è senz'altro un grosso appeal dal punto di vista di utenti che hanno le generazioni precedenti, no, di iPhone, ma anche un periodo, come dicevo prima, rispetto a questo rallentamento, se vuoi, di innovazione un pochino dal punto di vista di Android, dove magari degli utenti vorranno cambiare e ritornare ad Apple, per quelli che per cui magari il 4S non era stato abbastanza forte. E poi non dimentichiamoci che non è soltanto iPhone 5, che abbiamo un iPhone 4 e un 4S che scendono di prezzo, e quindi ci saranno dei venditori che arrivano sul mercato con prodotti nuovi, ma senza avere una brand, un marchio forte abbastanza, che si troveranno in competizioni con il 4 e il 4S. Che costeranno poco. Esatto. Bene, grazie a Carolina Milanesi per essere stata con noi, buon lavoro e a presto. Arrivederci. 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro servizio podcast. Se non siete ancora abbonati, abbonatevi, perché vi divertirete. Il sistema podcast è un nuovo modo per riascoltare la radio, o anche ascoltarla se non riuscite ad essere vicino ad una radio durante le nostre trasmissioni. Andate sul nostro sito internet, trovate tutte le informazioni, www.radio24.it. A proposito di www, vi ricordo che torna il mitico premio www del Sole 24 Ore. Sul sito internet del sole24ore.com trovate tutte le informazioni anche per iscrivere il vostro sito per vincere e partecipare a questo prestigioso premio. Massimo Morandi, tornando a quello che diceva Figini. Dunque, volevo allacciarmi a quello che diceva appunto Luca. È vero, oggi l'hardware ha sempre meno importanza. Tanto è vero, tu mi hai detto prima, molte cose si sapevano già, perché comunque la piattaforma e le novità della piattaforma erano già state annunciate. Questo vale soprattutto per Apple, che ha questo sistema operativo unico. Gli altri hanno il problema invece opposto, quindi lavorano su Android, hanno una piattaforma tutti molto simile, e hanno il problema di differenziare l'hardware, quindi di inserire nell'hardware qualcosa di diverso, sia a livello estetico sia a livello funzionale. Quindi queste sono le due vie che stanno seguendo i diversi produttori. Ci riescono gli altri? Perché questo... Secondo me Samsung recentemente ci è riuscita molto bene. Se guardiamo al Galaxy 3, se guardiamo al Note 2 con il pennino che permette pure di fare le mail certificate, quindi da questo punto di vista sì. Però c'è anche chi dice, forse un po' meno. C'è anche chi dice, se gli altri utilizzano tutti Android, cercando anche di personalizzare Android, a questo punto io compro direttamente uno smartphone o un tablet Nexus di Google, perché quella è la vera esperienza Android, cioè non passo da un mediatore, diciamo così, Figini. Beh, allora, secondo me innanzitutto Il top di gamma attuale del mercato non è l'iPhone, ma sono gli Android, a livello strettamente hardware, come dimensione del display, sono tutti i top di gamma sono 4.7 e 4.8 pollici rispetto a 4. È uno schermo più grande, insomma. È uno schermo più grande. Hanno processori più veloci, più potenti. Ok, l'iPhone 5 ha l'LTE che su Android in Europa ancora non sta arrivando e arriverà sull'iPhone, ma sull'LTE dell'iPhone è ancora tutto da stabilire se funzionerà con le reti italiane. Dopodiché sì, l'esperienza d'uso che ottieni con i Nexus è la Google Experience, come dice Google, cioè è nuda e cruda quella di Google, però non è perfetta. Quello che tentano di fare gli altri produttori è quello di perfezionare l'esperienza d'uso. Faccio un esempio. Gli Android di altri produttori, LG, Samsung, HTC, per esempio anche Sony, hanno la possibilità di impostare la tastiera alfanumerica classica del telefonino, che è molto comoda quando si usa il touchscreen con una mano in macchina, perché permette di usare la scrittura predittiva. No, quando uno è in macchina non lo deve usare il telefono. Non lo deve usare, quando può usarlo con una mano sola. Sì, ok. Cosa che ti evita di usare la QWERTY, per esempio. E Google di base non lo dà, piuttosto che alcune funzioni fotografiche che di base Google non dà e che sono date dai produttori. Sì. Senti, prima di tornare al nostro dibattito, vorrei tornare alle novità, perché chi non ha seguito in diretta i vari siti internet che fanno il live tweeting o comunque che seguono il live blog, eccetera, eccetera, quali sono le novità interessanti, oltre a quelle che tu ci hai ricordato, anche hardware, cioè ci sono delle novità che ci fanno fare un passo in avanti tecnologicamente o mica tanto? Fanno fare un piccolo passo in avanti. Per esempio il display da 4 pollici ha una risoluzione finalmente in formato 16 noni, che quindi va a correggere quella risoluzione particolare che aveva l'iPhone precedente, perché è una risoluzione 1136x640 pixel, in parole povere, e formato 16 noni puri, quindi quello cinematografico. Qui la questione però che si apre è sulla compatibilità delle app, perché cambiando la risoluzione e non procedendo per multipli, Apple avrà sicuramente fatto le cose a dovere, però rimane questa questione che è tutta da provare concretamente. Beh, diciamo, le app vecchie avranno... probabilmente scaleranno leggermente. No, oppure hanno le bande nere sopra e sotto. Questa è la domanda, sì. Secondo me tenderanno ad allargare, quindi siccome è tutto sommato contenuta la differenza, sono più o meno 200 pixel scarsi, probabilmente le allungheranno leggermente o si riconfezioneranno. Senti, una cosa che io ho giudicato rivoluzionaria, che non mi è piaciuta molto, però evidentemente ci avevano fatto quattro conti, hanno cambiato il connettore e molti si aspettavano che arrivasse l'USB, anche se sappiamo che Apple è allergica agli standard. È un piccolo dramma, io leggendo anche sui forum online qualcuno sta iniziando a guardarsi intorno su Android, quindi c'è il 4S, quasi quasi compro un Android perché almeno l'USB. È un piccolo dramma perché allora si apre un discorso degli accessori, e quindi va bene, le custodie cambiando telefono non possono più essere utilizzate. Allora spiego io. Allora, diciamo che prima Apple, cioè ancora oggi, insomma, tutti i prodotti Apple hanno un connettore che ha una larghezza standard di 30 pin tecnicamente. Perfetto. Allora, adesso hanno rimpicciolito di parecchie volte questo connettore, che è diventato tutto digitale, insomma un nuovo connettore molto più piccolo, molto più comodo, quindi è stato fatto sicuramente per ridurre le dimensioni del telefono, per fare un passo tecnologicamente in avanti, perché all digital eccetera eccetera, ma questo naturalmente crea un problema, perché se io avevo un accessorio che infilavo nel mio prodotto Apple con tranquillità, adesso devo comprarmi un adattatore che costa circa 30 euro. Eccolo lì. Ma non è tanto quello, la spesa in più sul telefono. Ti dici, non è tanto quello, però 30 euro lì, poi la copertina, poi qua e poi là. Ma il problema si apre e si raddoppia, se vuoi, sugli accessori sagomati, cioè quelli che avevano la forma dell'iPhone 4, 4S e che non possono più ospitare il 5. È il caso delle docking station, o è anche il caso di alcune automobili che hanno al loro interno l'alloggiamento per l'iPhone, e va bene, puoi comprare l'adattatore, però non puoi inserirlo nell'alloggiamento. Sentiamo Alberto da Reggio Emilia. Buongiorno Alberto. Pronto, buongiorno. Eccolo qua. Io ho chiamato perché fra le novità introdotte ho visto delle novità di Nokia, e soprattutto il 920, il Nokia Lumia 920. A livello estetico io lo paragono all'iPhone 5, lo trovo decisamente molto bello, e anche come qualità hardware ho notato che la Nokia ha presentato questa nuova tecnologia per quanto riguarda la fotocamera, se non sbaglio, denominata Purview. Sì, Purview, sì. Ecco, che sia sul modello Symbian che su questo Lumia qua, a leggere su qualche forum, sembra qualcosa, mi pare, di rivoluzionario. Aspetto il vostro parere su questi nuovi prodotti in arrivo. Sì, quindi lei dice, gli altri stanno facendo cose molto interessanti e Apple, rispetto alla a quello che ci avevamo che ci aveva abituato in passato, avrebbe dovuto fare un po' di più. Diciamo che iPhone è un continuo miglioramento, affinamento dei suoi prodotti. No, se guardo gli altri prodotti e le altre marche, anche loro hanno fatto dei passi avanti, secondo me. Sì. E soprattutto Nokia, perché Samsung con l'S3 e già l'S2 era già arrivata a degli ottimi livelli. Ma la rincorsa che sta facendo, secondo me, l'ultimo prodotto della Nokia con Windows, mi sembra anche dal punto estetico molto molto bello. Sì. Grazie Alberto per averci chiamato. Tra poco sentiremo altri ascoltatori, altri pareri. In effetti questo è vero, cioè gli altri stanno rincorrendo molto bene Massimo, però rimane questo famoso concetto d'esperienza d'uso, cioè l'accoppiata hardware e software. Ad esempio su per Nokia e Microsoft aspettiamo di vedere come funziona. Sì, anche perché è bene dire che questi sono i primi smartphone di Nokia, non con Windows ma con Windows 8, quindi non sappiamo ancora quando usciranno, ma immaginiamo sicuramente in tempo per il Natale. Dal punto di vista hardware sono molto spinti, sia a livello di processore sia a livello di batteria. Addirittura il 920 avrà una batteria da 2000 mAh. Non abbiamo visto ancora in toto come gira questo nuovo sistema operativo, ma abbiamo visto che comunque il precedente era molto, molto social, sì, molto, sì. Tra l'altro molto solido, molto stabile. Microsoft ha fatto un ottimo lavoro finora. Poi è ovvio che questa è una vera e propria wild card, come si dice nel tennis, per Nokia. È veramente l'ultimo appuntamento, sia per Nokia sia per Windows Phone. Come ho detto, cioè, la va o la spacca? Beh sì. Io sta wild card non la conosco. Esattamente. Ma guarda, poi il nostro ascoltatore parlava della tecnologia Purview, che noi abbiamo già visto sul modello 808, che però è un modello Symbian, un modello un pochino grande, e le immagini che scattava questo prodotto erano veramente eccezionali. Si potevano fare delle stampe a tre senza, e facendo vedere a chiunque, sfido chiunque a capire quale immagine fosse fatta con un telefonino o con una compatta. Quindi veramente siamo a un livello di compatta, addirittura entry level o di medio livello. Questo potrà far la differenza? Non lo sappiamo ancora, però comunque a livello tecnologico siamo molto avanti. Una cosa ancora solo volevo dirti: c'è un'applicazione che si chiama Nokia City Lens, che sarà sul 920, che permetterà, già integrata, di avere una realtà aumentata, diciamo 2.0, sì, quindi sì. Ti darà molte informazioni inquadrando, sì, i luoghi però dove ti trovi. Temo che su questi servizi Nokia stia facendo sicuramente un ottimo lavoro, ma ci siano delle altre applicazioni che più o meno ti fanno fare le stesse cose anche con altri. Sì, non qui so se su quello qui naturalmente c'è l'integrazione con l'hardware e col sistema operativo, poi naturalmente certo. C'è la navigazione, c'è tutto quanto. Matteo da Modena, buongiorno Matteo. Ciao, mi sentite? Certo che ci sentiamo. Sì, secondo me in questo momento la Apple che sta ricorrendo le altre case produttrici. Perché secondo me già il Galaxy S3 è di gran lunga più avanti, sia del 4S, secondo me sarà più avanti anche dell'iPhone 5. Adesso Matteo ti interrompo solo un attimo, secondo un tribunale di San José, nel caso specifico che tu citi Samsung, è stata Samsung a copiare un po' Apple, però in generale qua vedo che molti annuiscono, prosegui pure. Ecco perché ci ha chiesto mi sentite, perché effettivamente era in un logo, ma magari lo richiamiamo. Adesso abbiamo un appuntamento importante. Numbers 2024 Numbers. Adesso siamo pronti per regalarvi un software, partendo però da alcuni numeri. AudiWeb ha pubblicato i dati sul numero di utenti della rete internet in Italia a luglio. Il 79% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, ovvero 38 milioni, dichiara di accedere ad internet durante il mese, quindi ogni tanto. Numeri che scendono infatti a 13,3 milioni nel giorno medio, quindi diciamo che gli assidui sono circa 13 milioni. Ci sono anche nuovi dati sull'accesso da mobile, quindi da terminale mobile. 15 milioni sono gli italiani che accedono ad internet attraverso lo smartphone. Quanti sono invece quelli che accedono ogni mese da tablet? Allora, chi risponde esattamente può vincere una confezione di Dragon Naturally Speaking, il software di riconoscimento vocale di Nuance. Vince il primo che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente. Vediamo anche alcuni indizi. Allora, quanti sono gli italiani che accedono ogni mese da tablet, accedono ad internet? Sono 2 milioni, 2,7 milioni o 5 milioni? Ci risentiamo tra poco. Numbers. 2024. Questo è 2024, vi ricordo che ieri Expo 2015 e Telecom Italia hanno presentato Change Makers, un concorso di idee dedicato agli under 30, quindi quelli che hanno meno di 30 anni, che presentino progetti in grado di migliorare la vita di almeno 10 milioni di persone, contribuendo alla risoluzione di questioni sociali e ambientali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Quindi è sicuramente una ottima occasione, verranno selezionati 10 progetti all'interno del percorso che ci porterà ad Expo 2015. Questa è la parola d'ordine, Change Makers, quindi cercate sui siti di Expo e Telecom Italia o comunque su internet Change Makers per questo progetto interessante. Matteo, che ci stava telefonando poco fa, diceva delle cose interessanti e noi vorremmo recuperarlo, però probabilmente è in una zona poco coperta e questo è un altro grande problema. Ancora oggi abbiamo delle zone d'Italia che effettivamente è un paese complicato da coprire. Pensate a quelli che devono coprirla con l'FM, perché ci sono un sacco di colline, montagne, valli, eccetera, eccetera, però chiediamo uno sforzo in più agli operatori di telefonia mobile. Quindi, oppure Matteo, fermati sotto l'antenna così ti sentiamo bene. Massimo, sei d'accordo che Apple in molte cose sta rincorrendo gli altri? Io sono d'accordo con quello che dice Carolina Milanesi, cioè che l'esperienza d'uso completa, cioè il pacchetto completo è ancora superiore. Sì, in realtà però anche a livello di esperienza d'uso anche Android, che è un pochino più complicato, un pochino più per smanettoni, comunque si sta e si è avvicinato molto negli ultimi tempi. Ma sì, fondamentalmente anche per quello che ho detto prima, basta vedere le specifiche tecniche, quanto sono spinti a livello tecnologico i nuovi top di gamma. E poi forse anche così a livello strategico, facendo un telefono all'anno è gioco a forza che prima o poi ci si debba trovare ad inseguire. Adesso l'iPhone uscirà il 28 settembre e capiremo il primo weekend, ci saranno naturalmente milioni di vendita, però ti voglio dare un dato sul Galaxy S3 che è forse è passato un po', 20 milioni di pezzi venduti in 100 giorni. Nel mondo? Nel mondo. Ok. Ecco, quindi insomma sono dati da capogiro, quindi anche questo fa vedere che le vendite soprattutto per i produttori più importanti sono molto alte. C'è una grande spaccatura perché poi gli altri vengono molto molto ma molto meno. Sì, sì. Luca Figini, che ci ha detto all'inizio, prima di iniziare, ha detto io non ho ancora provato, perché lui se non tocca non ci crede. È proprio perché tu provi un sacco di cose e iOS 6, cioè il nuovo sistema operativo che dal 19 di settembre sarà disponibile per tutti, aggiornabile gratuitamente. Ho visto che tu l'hai già provato. Figini mi aveva proposto di farmelo provare. Ha detto: magari ma già a maggio. Sì, sì, ti puoi iscrivere come sviluppatore, tutta una procedura. Io ho detto: no, lasciamo perdere perché non volevo fare del caos. Anche perché c'è Figini, lo chiamiamo e ci facciamo dire le cose. Allora, quali sono le novità interessanti? Te ne lancio subito una. Siri, ecco, lo trovi efficace, efficiente o perché all'inizio è stato un disastro questo sistema? Siri in italiano è divertentissimo oltre che efficace e efficiente, nel senso che ti permette proprio di pronunciare delle frasi come se parlassi con un amico, quindi il tuo amico iPhone. Che tempo fa? Lui dice: guarda, adesso te lo dico, tu sei qui, sei a Milano, e ti dà le previsioni meteo e magari ti condisce anche con qualche parola carina del tipo. Funziona? Funziona bene, puoi chiedere risultati di calcio, puoi chiedere di chiamare una persona, di portarti a destinazione, esattamente come te lo sto dicendo io. iPhone, portami a Tirano, in Valtellina, e lui ti porta. È un'interazione molto più naturale di quella che viene col touch, che già col touchiness è abbastanza naturale, per così dire. Infatti diciamo che molti esperti della user interface, dell'interfaccia utente, dicono che la prossima interfaccia utente sarà quella vocale. tu parlerai con i telefoni, le macchine, eccetera, eccetera. Ma probabilmente c'è ancora un po' di tempo. Probabilmente il fatto che, come rilasciando i discorsi che abbiamo fatto finora, ci sia poca innovazione a livello hardware di Apple, forse sta lanciando la volata per un'altra evoluzione, che è quella del passaggio oltre il touchscreen, e quindi magari fra un paio d'anni, sviluppando una serie di altre iniziative, arriverà un secondo livello di spaccatura, di discontinuità, come è avvenuto con il primo iPhone. Non ci sarà neanche più il telefono, una scatola che ci mettiamo in tasca, nemmeno la tasca. Le altre novità. Una cosa interessante a proposito di anche qualità delle telefonate e qualità poi dell'interazione vocale col telefono, a me quando c'è un microfono mi piace sempre. Voi mettete un microfono a me, se mettete un microfono su una cosa mi piace subito, perché i microfoni mi piacciono, ma ci sono 3 microfoni sull'iPhone nuovo, giusto? Sì, servono anche per ridurre per misurare il rumore esterno e quindi tagliare il rumore e migliorare l'esperienza vocale. Devo ammettere che l'iPhone 4S ogni tanto non si sentiva tanto bene. Insomma, è molto. Gli iPhone finora hanno rischiato di essere un oggetto di navigazione e di internet, di mobilità e poco telefono. Probabilmente con l'iPhone 5 hanno rimesso al centro dell'attenzione anche la questione telefonica. Toglierei rischiano. Cioè, nel senso che effettivamente erano così. Beh, molto spesso quando si parla con una persona che ha l'iPhone la si accusa di sentirla male, e molti continuano a dire che, ad esempio, BlackBerry, Nokia, mi sembra che questi due siano i nomi da citare sulla qualità della telefonata. Nokia fa dei telefoni, Nokia, esatto. Nokia, ma anche Samsung e LG, specializzati, fanno degli ottimi telefoni. L'iPhone è una navigazione, poi telefona. Sì. A proposito di gente che fa telefoni, Samsung ha annunciato, sparso la voce che potrebbe portare in tribunale Apple sulle tecnologie LTE, e su questo bisogna ancora capire qualche cosa, perché ancora non si sanno bene, come tu dicevi, le specifiche per capire se questo funzionerà subito in Italia, perché naturalmente visto che ci sono 3 frequenze che gli operatori italiani allocheranno all'LTE, e anche noi indagheremo nelle prossime settimane, bisognerà capire se al lancio di LTE nei primi mesi del prossimo anno questa frequenza compatibile con iPhone sarà disponibile. Ci sono altri telefoni LTE? In commercio in Italia? Sì. O in generale? In commercio in Italia ancora no. C'è un LG, un Optimus, che è stato presentato, dovrebbe arrivare. Diciamo che la man bassa, i primi telefoni LTE verranno presentati a cavallo del periodo natalizio, sì, primi dell'anno. Sì. L'idea poi è che, come al solito, quando parte una nuova tecnologia, prima dovrebbero arrivare le chiavette e poi dovranno arrivare gli smartphone. Sì, non sì, sappiamo ancora i tempi. Ma. Dunque, mi segnalano dalla regia che, è interessante questo, per adesso non ha indovinato ancora nessuno al nostro gioco. Vi ricordiamo che vi regaliamo un software di riconoscimento vocale. A proposito del Siri, questo invece è un software che funziona con tecnologia di Nuance, che è un gigante americano specializzato anche in questi sistemi. No, ma la cosa divertente è che hanno indovinato quelli che hanno spedito gli SMS e nessuno invece di quelli che ha telefonato, però la regola dice che bisogna telefonare. Quindi la domanda che abbiamo fatto è: quanti sono gli italiani che accedono ogni mese da tablet su internet? Allora, Morandi e Figini hanno indovinato subito. 2 milioni, 2,7 milioni o 5 milioni? Vince il primo che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente. 800240024. Matteo non l'abbiamo recuperato. Quindi si è immerso in una valle sperduta. Rimane la questione del prezzo, che non abbiamo ancora affrontato. Sì, che non c'è ancora, è bene dirlo. Probabilmente verrà reso pubblico qualche giorno prima, mai molto tempo prima dall'uscita. Probabile che venga tradotto in dollari? No, molto difficile. Di solito, purtroppo, la traduzione dollaro-euro non funziona. Dicevo tradotto paro-paro, cioè 299 dollari diventano 299 euro. No, infatti, di solito non è così, purtroppo, perché l'euro viene sempre un po' più penalizzato. Però c'è una strategia, cioè quella di abbassare, americana, vediamo se poi la ripercorreranno anche in Europa, cioè abbassare il 4S e lasciare il 5 ai prezzi a cui era uscito il 4S, cioè per noi in questo caso sarebbe 6,59, 7,59, 8,59, 16, 32, 64 giga. Vedremo se sarà così, insomma, questa è la voce che gira, ma non è naturalmente niente di ufficiale. Figini. Ti posso dire solo tre motivi per passare a USA, che poi prima ci siamo fermati a Siri, ma non ti ho detto le tre, per chiunque ci ascolti vuole passare a USA. Prego. Le mappe fondamentali, che finalmente ha introdotto un software di navigazione gratuita con motore TomTom. E quindi quello è già un bel guadagno, perché alla fine si naviga con l'iPhone. Anche perché TomTom è sinonimo di navigazione. Quindi a questo punto, diciamo, Nokia ha la propria offerta Nokia Drive, che è ottimo, un ottimo navigatore, quindi diciamo che è un punto di forza sicuramente dei prodotti Nokia. Google Navigatore. Quindi su tutti gli Android c'è Google Navigatore. Google Maps Navigatore è gratis su tutti gli Android, e poi adesso finalmente anche l'iPhone ha un navigatore gratuito. Chiaramente come Google Navigatore, anche mappe sono mappe offline, quindi bisogna essere online. Quindi bisogna essere collegati a internet, mentre Nokia Drive ha le mappe offline, che è comunque un vantaggio. Il secondo motivo è che si può dialogare in modo nativo con Facebook, quindi il supporto Facebook è integrato in iOS, si può condividere direttamente. E il terzo fondamentale motivo è che sono migliorati in generale gli strumenti di condivisione, quindi delle foto, ma anche via mail, eccetera. È molto più naturale, molto meno schematico l'utilizzo di questi strumenti, come invece avviene adesso. Vabbè, poi molte novità, diciamo, le possono apprezzare gli utilizzatori di questi prodotti, che quando si trovano l'aggiornamento del software dicono: ah, guarda, questa cosa si fa molto meglio, eccetera eccetera. Che cosa mi dite di Amazon? C'è chi dice che arriverà un prodotto, uno smartphone anche di Amazon. La settimana scorsa Diego Piacentini di Amazon ha detto che non può commentare su questo, però non ha detto di no. Avrebbe senso, in effetti, per Amazon. Gli smartphone comunque è la categoria merceologica che più tira, insieme ai tablet. I tablet ce l'hanno già, è arrivato adesso con Kindle Fire, due modelli, per la prima volta in Italia, distribuito ufficialmente da Amazon Italia. Lo smartphone è l'elemento che manca loro. Certo, non sarà per leggere, non ci si può aspettare uno smartphone per leggere, però è uno smartphone per appoggiarsi a tutto l'ecosistema di app che hanno costruito nel frattempo. E dal punto di vista poi anche di mercato avrebbe un senso. Nell'ultimo biennio, negli ultimi due anni, lo smartphone è l'unico settore dell'elettronica di consumo con segno più. Tutto il resto, purtroppo, ancora oggi è a meno. Che orecchie per intendere, se Amazon deve guardare il mercato, non può non guardare gli smartphone. Sì. Cesare, dalla provincia di Arezzo. Benvenuto, Cesare. Salve, buonasera. Buonasera, Cesare. Allora, noi abbiamo domandato quanti sono gli italiani che ogni mese accedono da tablet ad internet in Italia, naturalmente. Secondo te quanti sono? Io dico 2 milioni. 2 milioni. Se non avessimo dato il suggerimento, saresti arrivato a questa risposta? Non proprio preciso, ma abbastanza, penso. Ah, quindi comunque un'idea del mercato ce l'hai, no? Perché prima Morandi e Figini mi hanno detto subito, appena siamo andati fuori onda, saranno 2 milioni, perché più o meno sono 2 milioni i tablet venduti. Io non ero certissimo di sapere che erano 2 milioni di tablet venduti in Italia. Cesare, tu usi tecnologia, smartphone, tablet, cose del genere? Sì, sì. Che cosa? Un iPad. Un iPad. E hai provato anche prodotti Android? No, non ce l'ho in nessuna parte, né nel telefono, né da nessuna parte. Sì. È un argomento di cui parli con i tuoi amici, colleghi, conoscenti, parenti, eccetera, oppure no? Perché io ti faccio anche questa domanda: quando parlo di tecnologia trovo ancora molte persone che dicono ma è una cosa da gente specializzata. Invece io sostengo che oramai parlare della tecnologia, soprattutto poi di smartphone, di cose che accadono su internet, di tablet eccetera eccetera, sia un po' diventato forse addirittura più popolare dello sport, perché allarghi Morandi si mette a ridere perché lui è un interista e quindi appena finisce di parlare di telefoni si mette a parlare dell'Inter. Ma tu che cosa dici, Cesare? Sì, sono d'accordo, sia nel mondo dei giovani sicuramente, e poi anche nel mondo del lavoro. Esatto. Tu che lo usi anche per lavoro? Sì, soprattutto. Sì. Ci vuoi dire che lavoro fai, oppure puoi imprenditore, un'impresa. Hai un'impresa. E come ti è cambiata la vita con questi aggeggi? Ma è cambiata sicuramente in tanti benefici, ma anche in una dipendenza un po'. Anche questo è vero. Cesare, ti ringrazio. Allora, riceverai a caso, al lavoro, all'ufficio, dipende che cosa hai detto al nostro centralino, questo software di riconoscimento vocale di Nuance che si chiama Dragon Naturally Speaking, quindi tu parli, detti, e lui scrive, cioè lui, il computer, scrive. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Questo è l'ultimo slot del nostro programma. Vi ricordo che è disponibile la versione podcast, sarà disponibile al termine del nostro programma la versione podcast, e vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente. Scriveteci nei prossimi giorni, sia su Facebook ma anche via email, per suggerirci temi che vi piacciono, vi interessano e che secondo voi è giusto approfondire nelle prossime settimane. C'è un tema che mi piace molto, anche se gli interlocutori sono sempre difficili da trovare, che è quello del cybercrime, della guerra digitale. Ci sono settimana dopo settimana notizie, ma questo è un tema che riguarda le nostre aziende, perché il furto di proprietà intellettuale è in forte crescita e quindi molte aziende che vivono sulla proprietà intellettuale devono proteggersi, ma è importante anche per i nostri computer, i nostri smartphone e tablet, in misura minore ancora questi terminali, ma proteggersi dagli attacchi è sempre più importante. E questo grande problema sta diventando un problema anche per gli stati, perché il settore cyber war, guerra digitale, sta crescendo. Questa settimana se ne è parlato anche in Giappone, perché anche i giapponesi hanno detto qualcosa in modo più o meno ufficiale. Sappiamo che negli Stati Uniti esiste da tempo il Cyber Command all'interno del Pentagono, e la Cina lavora molto su questo fronte, tant'è che Huawei e ZTE, che sono grandi produttori anche di telefonini ma anche di infrastrutture di telefonia mobile, infrastrutture di rete fissa, eccetera eccetera, vengono visti soprattutto negli Stati Uniti, ma in generale direi nel mondo anglosassone e in alcuni casi allargherei al mondo occidentale, non molto bene, perché alcuni li ritengono bracci operativi dei servizi segreti cinesi. Questi sono dibattiti che ci sono attivi, e questo sicuramente è un tema molto interessante. Matteo da Modena. Sì, eccomi, abbiamo... sono uscito dalla caverna. Ecco, bravo, infatti no, a questo punto abbiamo detto sì, richiamiamolo, perché visto che ti sei fermato apposta o ti sei fermato secondo programma? No, mi sono fermato apposta. Bravissimo. Ecco, ripeti il concetto che stavi dicendo prima, perché oltre che Morandi e Figini erano d'accordo, però mi sembrava insomma interessante. No, quello che secondo me, nella mia opinione, è che l'iPhone ultimamente sta rincorrendo anche questa causa che è stata fatta alla Samsung. Secondo me è sintomo di debolezza, cioè riconoscere che un'altra casa sta facendo cose migliori del proprio prodotto e cercare tipo di bloccarla, ecco. Perché Android è sempre stato un sistema libero e aperto, mentre con l'Apple hai quasi le manette, ecco. Sì, da un certo punto di vista avere le manette per un certo tipo di pubblico è più utile. Perché adesso, senza offesa per le donne, però una mia collega ieri mi ha detto: che cosa mi consigli? Io non ho ancora dato la risposta, adesso aspetto anche il parere dei nostri ospiti, però effettivamente in alcune condizioni forse Apple è più intuitiva, facile, quindi le manette sono utili. Non so cosa dici tu, Matteo. Ma io guardo, sono entrato nel mondo Android da poco, perché prima avevo un Symbian 3 e quello lì proprio l'avevo scartato a priori. Comunque anche io ho avuto a che fare con l'Apple comprando un iPod, e guardi, riuscire a passare le canzoni tramite iTunes e quei software lì era veramente una cosa impossibile, sì. Mentre ora con Android, cioè, attacco l'USB al computer, passo le canzoni, già risolto. Sì. Tu che Android hai? Io ho un Sony Xperia S. Xperia, bella, sì. Macchina, sì, bella macchina. Matteo, prego. No, volevo sapere se era disponibile anche il Jelly Bean per questo tipo di telefono, se uscirà, se sapete qualcosa. Adesso lo chiediamo a Figini. Bene, Matteo, ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci chiamato, e grazie anche per aver parcheggiato per 2024. Grazie. Dunque, Luca, Jelly Bean, che è l'ultima versione del... Sì, ti do, passo all'ascoltatore l'informazione che mi ha dato Sony all'IFA di Berlino, la Fiat Elettronica, un paio di settimane fa, e cioè che per tutti i nuovi Xperia, quindi dal Sony in poi, dalla S eccetera in poi, è previsto Jelly Bean, ma non ci sono ancora i tempi. Stanno lavorando, ma non ci sono ancora tempi. Ecco, però tu hai toccato uno dei punti dolenti del mondo Android. Adesso oggi diranno che io sono contro Android, assolutamente, anzi io sono più open di me, io sono per l'open source, ad esempio io sono favorevolissimo e obbligherei l'utilizzo nelle scuole solo di open source, e sulle scuole bisognerà che prima o poi parliamo. Sono per gli open data, eccetera eccetera, però ecco, uno dei punti dolenti di Android, se non sbaglio, è quello degli aggiornamenti. O è stato risolto il problema? Allora, è stato risolto solo parzialmente. In realtà ci sono delle aziende che sono molto più rapide e reattive. Abbiamo fatto il nome di Sony, ma voglio fare anche quello di Motorola, che sono molto più veloci. Ma torniamo a quello che ho detto io prima. Quando si cerca su una stessa piattaforma di diversificare l'hardware e di diversificare anche tutte le skin, come vengono chiamate, quindi le interfacce proprietarie, poi diventa più difficile e più lungo nel tempo fornire un aggiornamento ai cambiamenti del sistema operativo. Questa è una cosa che secondo me si porteranno dietro, difficilmente si potranno accorciare i tempi. Poi non parliamo delle personalizzazioni degli operatori, che mettono sul piatto altri problemi con i loro servizi, con le loro icone, con i loro colori. Esatto, esatto. Bene, possiamo continuare a discutere su Facebook oppure telefonandoci a vicenda questi prossimi giorni. Io ringrazio i nostri ascoltatori, che sono sempre fondamentali per la buona riuscita della nostra trasmissione. Ringrazio Paolo Corleone, che si è occupato della parte tecnica, e la parte tecnica non termina con la messa in onda della trasmissione, perché ci sono cose da fare sia prima che dopo. Grazie anche a Rosa, che si è occupata del centralino, Nadia Zammitti. Io sono Enrico Pagliarini e grazie a Massimo Morandi. Ciao Massimo, a presto, buon lavoro. Ciao Enrico, un saluto a tutti. E anche grazie a Luca Figini, a presto. Ciao, a presto, buona domenica. Oltre che Cellulare Magazine e Smartphone Magazine, ricordiamo anche, Figini si occupa soprattutto di portatili e tablet. Benissimo, noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 17, poco prima delle 17, prima del giornale radio, oppure ci trovate anche sul servizio podcast, che mi piace sempre ricordare. Andate sul nostro sito internet per abbonarvi gratuitamente, www.radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.